ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. Notte d'estate. Per tutto il giorno in cui si celebrava il grande banchetto a casa di una delle reti, Jan di Skrolica se n'era rimasto a casa, ma quando fu sera uscì e si sedette come al solito sulla lastra di pietra davanti alla soglia. Era stato un mese di giugno incredibilmente caldo e secco, e gli incendi dei boschi, che scoppiavano quasi sempre nelle estati di siccità, erano già iniziati. Lo si poteva capire da quelle belle nuvole di fumo azzurrognolo che si accumulavano sopra i monti del Duxo, di fronte a lui, sull'altra riva del lago. Presto, verso sud, notò una nuvola di un bianco splendente e arricciata, simile a una testa, e, volgendosi a ovest, anche da quella parte, vedeva delle alte nubi, miste a fumo. Sembrava che il mondo intero fosse in fiamme. Non vedeva l'incendio, da dove era, ma era ugualmente spaventoso sapere che laggiù il fuoco si era scatenato e poteva regnare incontrastato. C'era solo da sperare che si limitasse agli alberi del bosco, senza spingersi all'assalto di case e fattorie. Si respirava a fatica, come se fosse stata bruciata una tale quantità di aria da non rimanerne quasi più. Non sempre, ma a brevi intervalli, un odore di bruciato veniva a pungere le sue narici. Un odore che non arrivava dai focolari delle Askedalar. Era un messaggio dai grandi roghi di frasche, di aghi di abete e di muschio che ardevano e scoppiettavano a parecchie migliaia di distanza. Era una di quelle notti in cui sembrava che la terra non valga uno sguardo. Solo il cielo e l'acqua che lo riflette meritano la contemplazione. Ma sul più bello, mentre sedeva ammirando quello splendore, Jan cominciò a stupirsi di una cosa. Forse era impossibile, sicuramente si ingannava, ma gli sembrava proprio che la volta celeste avesse incominciato ad abbassarsi. Ai suoi occhi, almeno, era molto più vicina alla terra del solito. Jan aveva più volte sentito dire che la terra un giorno sarebbe andata distrutta, ma si era sempre immaginato che dovesse avvenire in mezzo a tempeste, terremoti, che avrebbero scagliati i monti nei laghi e spinto l'acqua in dalle valli e pianure, sommergendo ogni essere vivente. Non aveva mai pensato che la fine potesse arrivare in quel modo, con la terra che veniva schiacciata dalla volta del cielo e gli uomini che morivano soffocati dal calore. Gli sembrava la fine peggiore che ci potesse essere. Depose la pipa, benché ne avesse fumata soltanto metà, ma poi rimase lì seduto tranquillo, al suo posto, perché cos'altro poteva fare? Era strano, però, che nessun altro avesse notato quel che stava accadendo. Ma ora, ecco, che cosa mai saliva laggiù sopra la cresta dei monti? Era una moltitudine di punti neri che si delineavano contro le nuvole splendenti di fumo. Si rincorrevano così veloci da tracciare brevi tratti davanti agli occhi, più o meno come le api quando sciamano. Erano uccelli, naturalmente. Ma, cosa straordinaria, si erano levati dal sonno notturno ed erano saliti su, nell'aria, nel cuore della notte. Certo, ne sapevano più degli uomini. Dovevano aver sentito che qualcosa stava per accadere. Ma se la distruzione era così prossima, ed egli non poteva sperare di ricevere alcun messaggio da Clara Gulla, né tantomeno di vederla prima che tutto fosse finito, chiedeva soltanto un'unica grazia: di riuscire a capire che cosa mai aveva fatto per contrariarla, in modo da poterle spiare prima che ogni essere vivente sulla terra sparisse per sempre. E che cosa mai aveva fatto che lei non poteva dimenticare e perdonare? Perché i tesori imperiali gli erano stati tolti? Proprio mentre si poneva queste domande, il suo sguardo cadde su un pezzetto di carta dorata che luccicava per terra davanti a lui. Splendeva, come se volesse attrarre la sua attenzione, che in quel momento era rivolta ad altro. Si trattava senza dubbio di un pezzo delle stelle che aveva avuto in prestito da Ingborg la scema, ma non si era più occupato di quelle futilità per tutto l'inverno. Faceva sempre più caldo, e respirare diventava sempre più difficile. Era la fine che si avvicinava. E forse era un bene che non tardasse ulteriormente. Non era bello verso Katrina non avvertirla di quel che stava accadendo. Ma non era in casa e era ancora al banchetto di Ula. Se Jan avesse soltanto potuto trascinarsi fin là, anche al vecchio Ulbengsta avrebbe detto volentieri una parola d'addio. Fu molto contento quando vide d'un tratto apparire Katrina che tornava in compagnia di Ula delle reti. Voleva gridar loro che si affrettassero, ma non riuscì ad articolare parola. Un attimo dopo erano entrambi chini su di lui. Katrina corse a prendere dell'acqua e gli diede da bere. Ian allora riprese abbastanza forze da poter annunciare che il giorno del giudizio era vicino. «Il giorno del giudizio! È che ti sei preso la febbre e stai delirando, Ian!» Allora Ian si volse al vecchio delle reti. «Non vedete che la volta del cielo si abbassa sempre più?» Ula non gli rispose neanche. Si volse invece a Katrina. «Non va niente bene», disse. «Credo che saremo costretti a tentare quello che dicevamo per strada. È meglio che io salga subito a falla». «Ma Lars si opporrà di certo», rispose Katrina. «Sapete bene che Lars è andata alla locanda. Penso che la vecchia padrona di falla avrà il coraggio di...» Ian l'interruppe. Non poteva sopportare che stessero lì a conversare di inezie quando avvenimenti tanto grandi si stavano preparando. «Non dite più nulla», disse. «Non sentite le trombe del giudizio? Non sentite come rimbombano su nei monti?» Restarono un momento in ascolto per accontentarlo. In realtà si poté notare che udivano qualcosa di strano, anche loro. «Sentite?» chiese Ian. «Sentite?» «Sì, sento», rispose Katrina. «Ma chi sia non mi riguarda. Ora devo prima di tutto prepararti il letto. A questo devo pensare». «E io devo andare a falla, io», disse Ula. «È più importante di ogni altra cosa. Arrivederci intanto». Il vecchio se ne andò più in fretta che poté, e Katrina entrò nella casa a preparare il letto. Ma era appena entrata che quel rumore che lei e Ula avevano creduto venisse da una comune vettura le fu proprio addosso. Era come il tuonare di pesanti carri da guerra, e la terra tremava al suo avvicinarsi. Ian chiamò a gran voce Katrina, che corse subito fuori. «Su via, non avere tanta paura», lo rassicurò Katrina. «Ora vedo il cavallo. È il vecchio Brüningen di falla. Tirati su e lo vedrai anche tu». Pose il braccio sotto la nuca di Ian e lo sollevò. Tra i giovani ontani che bordavano la strada, Ian intravide un cavallo che galoppava in corsa selvaggia verso Skrolika. «Lo vedi?» disse Katrina. «È soltanto Lars Gunnarsson che torna a casa. Deve essersi talmente ubriacata la locanda che non sa neanche che strada ha preso». Mentre parlava, la vettura passò proprio davanti al loro cancello e poterono vederla meglio. Si accorsero allora entrambi che il carro era vuoto e il cavallo era senza cocchiere. Improvvisamente Katrina diede un grido e ritrasse il braccio così rapidamente che Ian ricadde indietro con un tonfo. «Dio mi perdoni!» esclamò. «L'hai veduto? Ian! Hai visto? Era trascinato dietro!» Non attese risposta, ma si precipitò oltre il cortile, verso la strada dove il cavallo era passato un momento prima correndo all'impazzata. Ian la lasciò andare senza alcuna obiezione. Era contento di rimanere di nuovo solo. Non aveva ancora trovato una risposta a quella domanda, perché mai l'imperatrice fosse adirata con lui. Il pezzetto di carta dorata era ora proprio sotto i suoi occhi, e luccicava talmente che attirò ancora una volta il suo sguardo. E dal pezzetto di carta i pensieri gli scivolarono a Ingborg la scema, e a quel giorno in cui l'aveva incontrata presso il pontile di Borg, e di colpo gli balenò in mente che proprio lì era la risposta alla sua domanda. Adesso sapeva di che cosa la ragazzina era rimasta scontenta per tutto l'inverno. Era verso Ingborg la scema che Ian aveva agito ingiustamente. Non avrebbe mai dovuto negarle di poter un giorno andare anche lei in Portogallia. Come aveva potuto giudicare così male la grande imperatrice da pensare che non volesse con sé Ingborg la scema? Ma se era proprio gente come lei che soprattutto voleva aiutare. Non c'era da stupirsi che si fosse adirata. Avrebbe ben dovuto capirlo lui, che i poveri e gli infelici erano sempre i benvenuti nel suo regno. Ormai non si poteva rimediare se non doveva più esserci un domani. E se invece ce ne fosse uno? La prima cosa che avrebbe fatto sarebbe stata di andare a parlare con Ingborg la scema. Chiuse gli occhi e congiunse le mani. Ah, com'era dolce essersi liberato di quell'assillo. Ora non era più così penoso morire. Non sapeva quanto tempo fosse passato, quando udì la voce di Katrina vicinissima a lui. «Ehi, come ti senti? Mi dovrei capire molto». Aveva un tono così ansioso che Ian dovette forzarsi ad aprire gli occhi, e immediatamente vide in mano a Katrina il bastone imperiale e il caschetto di cuoio verde. «Ho chiesto a Falla di poterteli portare. Ho detto loro che, comunque vada, è meglio che tu li riabbia, piuttosto che perdere del tutto la voglia di vivere». Ian congiunse di nuovo le mani. La ragazzina, la grande imperatrice, era proprio straordinaria. Si era appena reso conto della sua colpa e aveva appena promesso di espiarla, che già gli restituiva la sua grazia e il suo favore. Sentì un sollievo così incredibile. La volta del cielo si levava in alto. lasciando passare l'aria e portando via quel calore torrido. Yan si sentì in grado di sollevarsi e di allungare la mano in cerca dei suoi tesori imperiali. «Sì, d'ora in poi puoi tenerli in pace», disse Katrin. «Nessuno verrà più a portarteli via, perché Lars Gunnarsson è morto». Il benvenuto all'imperatrice. Era tornata. La ragazzina era tornata. È difficile trovare parole per descrivere un tale avvenimento. Era arrivata in autunno così inoltrato che i battelli per i passeggeri non facevano più servizio su Lowen, e la traversata del lago era assicurata soltanto da un paio di piccole imbarcazioni da carico. Ma con questi non aveva voluto viaggiare, o forse non sapeva neanche che esistessero, e aveva invece preso a nolo una vettura dalla stazione ferroviaria alle Askedalar. Yandis Krolika non poté quindi accoglierla al pontile di Borg, dove l'aspettava ormai da 15 anni. Perché era da 15 anni che era partita. Per 18 anni Yan aveva avuto la felicità di averla in casa, e per un tempo quasi altrettanto lungo aveva dovuto soffrire della sua mancanza, e non ebbe neppure la fortuna di trovarsi in casa ad accoglierla al suo arrivo. Era appena uscito per andare un momento a trovare la vecchia padrona di Falla, che ora aveva lasciato la casa padronale e abitava per conto suo in una camera. Era una delle tante persone vecchie e sole che l'imperatore di Portugalia si era dato il compito di visitare di tanto in tanto, per tenerle di buon animo con qualche parola amichevole. C'era solo Katrina, dunque, a riceverla sulla soglia, quando la ragazzina arrivò a casa. Katrina era rimasta seduta tutto il giorno all'arcolaio, e aveva appena fermato la ruota per riposarsi un po', quando udì il cigolio di un carro, lontano, sulla strada. Era così raro che qualcuno passasse in vettura per le Askedalar, che Katrina si era avvicinata alla porta per mettersi in ascolto, e si era subito resa conto che non era un comune carro da lavoro, ma una vettura molleggiata. Immediatamente avevano cominciato a tremarle le mani. Facevano sempre così ormai, ogni volta che si spaventava o si agitava. A parte quello, era ancora svelta e attiva, nonostante i suoi 72 anni. Aveva soltanto paura che quel tremito le aumentasse, al punto da impedire di procurarsi da vivere per se stessa e per Yan, come aveva potuto fare fino ad allora. A quel tempo Katrina aveva perso bella e buona ogni speranza di poter mai più rivedere la figlia, e non aveva pensato a lei per tutto il giorno. Ma in seguito raccontava che dal momento in cui aveva sentito avvicinarsi il carro, aveva saputo con certezza chi arrivava. Andò verso il cassettone per tirar fuori un grembiule pulito, ma le mani tremavano tanto che non riuscì a infilare la chiave nella serratura. Non avendo potuto mettersi un po' meglio, dovette uscire ad accoglierla così com'era. La ragazzina non arrivava su una carrozza d'oro, e neppure in vettura. Veniva a piedi. La strada per le Askedalar era ancora brutta. Era brutta come al tempo in cui Erik di Falla e sua moglie l'avevano portata dal pastore per farla battezzare. E ora Clara Gulla e il conducente camminavano ognuno a un lato della vettura, facendo attenzione che le grosse valigie accatastate dietro il sedile non andassero a finire nel fossato. Fu tutta qui la gran pompa del suo arrivo. Ma forse non c'era neanche da pretendere di più. Era Clara Gulla che arrivava. Lo sapeva, anche se la donna che in quel momento stava spingendo il cancello aveva l'aria di una vera signora. Portava un cappello ornato di tanti piumi e di fiori, un vestito di stoffa pregiata. Eppure era proprio la ragazzina di Skrolika, non c'era dubbio. Attraversò in fretta il cortile precedendo la vettura e si fece incontro a Katrina con la mano tesa. Ma Katrina restò immobile, chiudendo gli occhi. Un'ondata di amarezza le salì nell'animo in quel momento. Le sembrò di non poter perdonare alla figlia di essere in vita, e di arrivarsene così fresca fresca dopo essersi fatta aspettare invano per tutti quegli anni. Avrebbe quasi preferito che non si fosse mai più presa la briga di tornare. Katrina aprì gli occhi, e la osservò bene. Da persona ragionevole non si era mai aspettata che la figlia, dopo un'assenza di 15 anni, fosse rimasta uguale a quando era partita di casa. Ma quel che vide la spaventò. La donna che le stava davanti appariva molto più vecchia di quel che era, visto che doveva avere appena passato la trentina, ma non era per i capelli grigi alle tempie o per la fronte piena di rughe sottili che Katrina si spaventò. Si spaventò perché Clara Gulla era diventata brutta. Aveva un colorito stranamente giallognolo e c'era qualcosa di volgare e greve intorno alla sua bocca. Il bianco degli occhi si era fatto grigiastro e iniettato di sangue, e sotto gli occhi la pelle formava grosse borse. Katrina si era lasciata cadere su una sedia e stava lì, stringendo con forza le mani intorno alle ginocchia per impedir loro di tremare, e pensava alla giovane diciottenne raggiante nel suo vestito rosso. Era così che Clara Gulla era rimasta nel suo ricordo fino a quel momento, e si domandava se sarebbe mai riuscita a rallegrarsi del suo ritorno. «Avresti anche potuto scrivere», disse Katrina. «Avresti potuto mandarci almeno un saluto per farci sapere che eri ancora in vita». «Sì, lo so», rispose la figlia. La voce almeno era la stessa, spavalda e allegra come prima. «Ma è che sono cascata male da principio». «Già, forse l'avete sentito dire?» «Sì, è tutto quanto sappiamo», disse Katrina sospirando. «È per questo che ho smesso di scrivere», continuò Clara Gulla e rise un po'. Dava sempre quell'impressione di persona forte e capace, come prima. Non era certo tipo da tormentarsi con rimorsi ed esami di coscienza. «Non pensateci più ora, mamma», disse, poiché Katrina continuava a tacere. «Adesso sono ben sistemata. Mi occupo della cucina di un grande vapore che fa servizio tra Malmo e Lubecca, e quest'autunno ho preso in affitto una casa a Malmo. Qualche volta ho pensato di scrivervi, ma non era facile ricominciare. Ho pensato che era meglio che ti contarmi così così, finché non si potrà di potervi prendere con me, voi e papà. E ora che mi sono organizzata, in modo da poterlo fare, era più bello venire io stessa a prendervi che scrivere». «E tu non hai saputo nulla di noi?» chiese Katrina. Tutte queste spiegazioni avrebbero pur dovuto farle piacere, invece continuava a sentirsi ugualmente abbattuta. «No», rispose Clara Gulla. E aggiunse a giustificazione: «Sapevo bene che avreste ricevuto aiuti se vi fosse andata troppo male». E subito dovette accorgersi come a Katrina tremassero le mani, benché le tenesse strette l'una nell'altra. Capì che a casa se l'erano passata peggio di quel che aveva creduto e cercò di giustificarsi. «Non volevo mandarvi piccole somme come fanno gli altri. Volevo risparmiare finché non fosse arrivata ad avere una vera e propria casa per potervi prendere con me». «Non abbiamo avuto bisogno di denaro», disse Katrina. «Ci sarebbe bastato che tu scrivessi». Clara Gulla cercò di strappare la madre da quella tristezza, come faceva un tempo. «Non rovinatemi questo momento, mamma», disse. «Adesso sono di nuovo qui. Venite ora, dobbiamo portare dentro le mie valigie e disfarle. Lì ce n'è di roba da mangiare. Dobbiamo preparare un banchetto per quando viene a casa papà». Ma Katrina non la seguì. Clara Gulla non aveva chiesto come stava il padre. Non le era neanche passato per la testa che potesse non essere a lavorare a falla, come un tempo. Katrina sapeva bene che doveva dirle come stavano le cose, ma continuava a rimandare. Era pur sempre entrata un po' d'aria fresca nella casetta con la ragazzina. E Katrina non aveva il coraggio di mettere subito fine alla sua gioia per il ritorno. Mentre Clara Gulla aiutava a scaricare, si accorse che 6 o 7 ragazzini si avvicinavano al cancello e guardavano nel cortile. Non dicevano niente, si limitavano a ridere, indicandolo a dito, e poi correvano via. Ma un momento dopo erano di nuovo lì, e questa volta avevano in mezzo a loro un vecchietto tutto ingiallito e incartapecorito, ma che incedeva a testa alta, rigido e marcando il passo come un soldato in marcia. «Che razza di strano personaggio è mai quello?» chiese Clara Gulla al conducente, mentre il vecchio e il nugolo di bambini entravano dal cancello. Non aveva la minima idea di chi fosse, ma non poteva fare a meno di notare un individuo conciato in modo così stravagante. Questa volta i ragazzini non rimasero più zitti, ma cominciarono a gridare a squarciagola: «Imperatrice! Imperatrice!» Il povero vecchio non li zittì. Avanzò come se i denti fossero la sua scorta d'onore. Quando la schiera fu quasi davanti alla porta della casetta, Clara Gulla proruppe in un'esclamazione e scappò in casa da Katrina. «Chi è?» chiese con aria spaventata. «È papà? È diventato pazzo?» «Sì», rispose Katrina, e si portò il grembiule agli occhi e si mise a piangere per la pena. «È per causa mia?» «Così ha voluto il Signore nella sua misericordia», disse Katrina. «Il Signore ha visto che sarebbe stato troppo penoso per lui. Di più, non fece in tempo a spiegare, perché ora Jan stava sulla soglia, seguito dalla frotta dei bambini, ansiosi di vedere come si sarebbe svolto nella realtà quell'incontro che avevano tante volte sentito descrivere. L'imperatore di Portugallia non si avvicinò subito alla figlia. Si fermò davanti alla porta ed espresse il suo benvenuto. «Sii benvenuta! Tu, Clara! Tu, Fina! Tu, splendida Gullenborg!» Pronunciò queste parole con la composta dignità che mostrano gli alti personaggi nei grandi momenti, ma al tempo stesso vere lacrime di gioia gli spuntarono agli occhi e non riuscì a impedire alla voce di tremare. Dopo aver declamato quel saluto ufficiale a lungo meditato, l'imperatore batté forte a terra 3 volte il bastone imperiale per invitare al silenzio e all'attenzione. Poi si mise a cantare, con la sua voce sottile e stridula. Clara Gulla si strinse a Katrin. Sembrava volesse nascondersi, sparire dietro la madre. Fino a quel momento aveva taciuto. Ma quando Jan innalzò la voce nel canto, lanciò un grido di spavento e avrebbe voluto fermarlo, ma Katrin l'afferrò forte per il braccio. «Lascialo fare. Gli ha dato tanta gioia l'idea di poterti un giorno cantare questa canzone da quando te ne sei andata». Allora Clara Gulla si acquietò e lasciò che Jan proseguisse. «L'imperiale genitore così lieto nel cuore. Come detto sul giornale, Austria, Portogallo, Metz e Giappone è quel che è. Boom, boom, boom, su, rulla, boom, boom, boom!» Ma Clara Gulla non resistette oltre. Si precipitò in avanti, cacciò fuori in fretta e furia i ragazzi e chiuse la porta dietro di loro. Poi si volse al padre e pestò persino i piedi davanti a lui. Era davvero fuori di sé. «Zitto, per carità!» gridò. «Volete proprio farmi ridere dietro chiamandomi imperatrice?» Jan apparve un po' sconcertato, ma si riprese in un istante. Era sì o no la grande imperatrice? Tutto quel che faceva era ben fatto. Tutto quel che diceva era famoso a niente. Nella gioia si era del tutto dimenticato di guardare se c'erano la corona d'oro, il trono d'oro e i condottieri vestiti d'oro. Se lei desiderava mostrarsi povera e senza difese al suo ritorno, era affar suo. A lui bastava l'immensa felicità di riaverla con sé. Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.